Ecco, abbiamo quattro comunicazioni, se riusciamo a stare nei tempi. Devo dare lettura anche del telegramma dell'onorevole Luciano Azzolini, il quale appunto dice: impossibilitato a partecipare al convegno interdisciplinare Silenzio e Parola, auguro proficuo lavoro. Le comunicazioni che ascolteremo stamani mattina sono quattro. Cominciamo da professor Di Giovanni. Corradi. Incominciamo dal professor Enrico Corradi, il discernimento tra silenzio e parola. Questa figura del discernimento è di natura biblica, è il dokimazein, di cui parla prevalentemente San Paolo, non soltanto San Paolo, e proprio perché mi propongo di essere decisamente schematico, vorrei porre come premessa un testo di Paolo, esattamente tratto dalla lettera ai Romani, al capitolo 12, versetto secondo. Non conformatevi alla mentalità del secolo, ma trasformatevi, rinnovando la vostra mente per discernere, dokimazete, la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Sintesi, il discernimento è la dimensione cristiana che cerca di individuare la volontà di Dio qui e ora, di rispondere alla domanda: che cosa vuole Dio da me in questo momento? Le riflessioni che presenterò in modo schematico, a mo' di scaletta, vengono raccolte attorno a cinque domande. Qual è il profilo essenziale della persona? Cosa comporta l'ascolto della parola di Dio? Perché il discernimento? Qual è lo statuto epistemologico del discernimento? E poi il discernimento tra silenzio e parola o tra fede e carità. Il primo: qual è il profilo essenziale della persona? Il discernimento ha come quadro di antropologico di riferimento quel quadro culturale che è illuminato dal principio di persona. Proprio in modo estremamente schematico, appena fatto accenni, ecco, possiamo dire questo, che lo statuto della persona presenta due aspetti essenziali, che traspaiono efficacemente dall'analisi, anche dall'analisi lessicale del termine persona. Come tutti ben sappiamo, questo termine era usato per indicare la maschera degli attori, la quale svolgeva la duplice funzione, quella di rappresentare un personaggio, un modello, e la funzione tecnica di amplificare la voce. Era una specie cassa di risonanza che aumentava il volume della voce. Ebbene, queste due funzioni vengono messe in luce proprio dalle due versioni, quella latina e quella greca. La versione latina, che è identica a quella italiana, la versione latina di persona è persona, dice appunto che l'essere uomo vuol dire personare. Appunto, accentuare, amplificare per il suono, la voce. questo fa riferimento all'apertura dell'uomo nei confronti della comunità. L'uomo è parola che comunica. L'altra funzione della maschera, quella di rappresentare il personaggio, viene messa invece in trasparenza dal corrispondente greco che è prosopon, e che possiamo tradurre con rappresentazione di, appunto, rappresentazione di un modello, di una verità. Per cui l'uomo si presenta come un segno aperto da una parte verso la verità e dall'altra aperto nei confronti della comunità. Questa lettura della persona come ciò che sta in mezzo tra la verità e la comunità e trova una conferma nella concezione classica della persona stessa, che, come noto, si alimenta della correlazione tra persona e ragione. C'è una correlazione profonda tra la nozione di persona e quella di ragione nel pensiero classico. Tutti abbiamo presente la definizione più famosa, quella di Severino Boezio, secondo cui nature rationalis, individua sostanzia, parla dell'uomo appunto come soggetto razionale. Ma per ben comprendere questa correlazione dobbiamo tenere presente che cosa significa ragione per il mondo classico. Questo discorso è stato fatto in modo magistrale ieri dalla professoressa Gemma Corradi Fiumara, quando appunto ha distinto nel logos due significati: il significato del raccogliere, il significato del comprendere. Logos da legein, cioè raccogliere, legare, tenere insieme, abbracciare, comprendere, e che allude naturalmente alla disponibilità costitutiva dell'uomo che si apre ad abbracciare l'orizzonte della verità, proprio a comprenderlo, a capire l'orizzonte della verità da una parte, e dall'altra c'è il logos che significa parlare, comunicare la verità recepita alla comunità. Nella definizione di Severino Boezio appare l'uomo come logos, come parola, che occupa una posizione intermedia tra la verità e la comunità. Parola che ascolta la verità e la comunica agli altri. E qui sarebbe utile andare avanti, non in questa sede, e vedere appunto che da questo nesso tra persona, verità e comunità, che costituisce un plesso indissociabile, si possono ricavare tante conseguenze molto utili. Questa è la risposta alla prima domanda. L'uomo si presenta come parola aperto alla verità, che ascolta la verità e la comunica alla comunità, e la manifesta alla comunità. Ci domandiamo adesso, seconda domanda, che cosa comporta da parte dell'uomo ascoltare la parola di Dio. Come emerge la figura della parola di Dio? Emerge a partire dalla domanda che chiede di sapere qual è il fondamento dell'uomo come parola. Fondare vuol dire ricondurre alla radice. Per San Giovanni la radice è il verbo di Dio, la parola di Dio. In principio c'era il verbo. La radice è il verbo. Allora ne scaturisce che la dimensione prioritaria dell'uomo è quella del silenzio. L'uomo è innanzitutto e soprattutto silenzio. dopo semmai diventa colui che parla, che comunica. Ma quella, la dimensione contemplativa o di ascolto, è la prima dimensione che scaturisce dal corollario del primato della parola di Dio. Però quando si parla di parola nel contesto biblico, dobbiamo tenere presente che la parola vale come logos greco e vale anche come dabar ebraico. Il logos greco intende la parola come ciò che rivela la cosa come è, ciò che la cosa è. Il dabar ebraico rivela ciò che la cosa deve essere. Allora, se la dimensione prioritaria dell'uomo è quella dell'ascolto, ascoltare nella fede, con la fede, la parola di Dio, significa non soltanto ascoltare una verità teorica, ma assumere l'impegno di sviluppare il contenuto di quella verità. In altre parole, in altri termini, l'ascolto nella dimensione cristiana, che assume la forma della fede, proprio perché ascolta una verità da fare, si traduce in carità. Per cui il binomio di prima, silenzio e parola, ascolto e comunicazione, si traduce nella semantica cristiana, nel binomio tra fede e carità. Come diceva, concludendo la sua bellissima relazione di ieri, il professor Baldini, diventa ascolto e testimonianza. Queste le ultime due parole, ascolto e testimonianza. La carità, parola, testimonianza. Il discernimento, ecco, il discernimento è la mediazione tra la fede e la carità. Occupa lo spazio intermedio tra la fede e la carità, tra l'ascolto cristiano e la testimonianza cristiana. Terza domanda: ma perché il discernimento? Cioè, come salta fuori il discernimento? Qual è la genesi del discernimento? La risposta si lega al contenuto della verità rivelata dalla parola di Dio. L'uomo ascolta la parola di Dio. Qual è la verità rivelata? San Paolo dice che la verità essenziale è il piano di salvezza voluto dall'amore di Dio. Questa è la verità centrale. Credere vuol dire credere a questo piano, che esiste questo piano. Questo piano che è stato ideato, pensato nel Verbo prima della creazione del mondo ed è stato manifestato e realizzato nel Verbo incarnato, anzi, nel Verbo in Gesù morto e risorto, nel Gesù pasquale. Questa manifestazione e questa realizzazione è definitiva. Questo è un punto importante, è un nodo essenziale per cogliere, secondo il parere del sottoscritto, per cogliere il significato del discernimento, è un nodo essenziale. Ossia, convincerci che il piano di salvezza voluto dall'amore di Dio si è definitivamente compiuto nella Pasqua. L'autore della lettera agli ebrei dice che l'attuazione del piano è accaduta una volta per sempre, a Pasqua. Il che vuol dire che in Gesù morto e risorto si ricapitola il significato della storia di ogni uomo fino alla fine del mondo. questa categoria della ricapitolazio, di cui tratta ampiamente San Paolo nella lettera agli Efesini, è estremamente importante per capirci e per capire, perché anche poi suscita un problema. Per capirci, San Paolo trae questo corollario. Se, di lato il corollario, se tutto è ricapitolato in Cristo, se Cristo è la prolessi, l'anticipazione del significato della storia di ogni uomo, non della storia in senso fenomenologico, ma del senso di ogni evento umano, allora tutti noi risorgeremo, perché la nostra risurrezione è già stata definitivamente attuata in Cristo. Questo è un corollario. E anzi, dice che se noi non risorgessimo, vorrebbe dire che noi non crediamo, se noi diciamo che non risorgeremo, mettiamo in dubbio questo, vuol dire che mettiamo in dubbio che Cristo è risorto. Con tutte le altre conseguenze. Quindi noi siamo già presenti. Là, nella Pasqua, il piano d'amore è già realizzato. La volontà di Dio, che diventa la norma originaria di comportamento per ogni uomo, in particolare per il cristiano, si è già attuata là. Ora, il problema, adesso cosa succede allora? Dopo la Pasqua, che cosa succede? In altre parole, se è vero che la Pasqua è un po' come la sorgente che contiene tutta l'acqua che dovrà fluire nel fiume della storia. Durante il corso della storia, che cosa succede? Ora bisogna distinguere tra l'attuazione definitiva nella Pasqua e la attualizzazione, il dispiegamento. Dopo la Pentecoste si ha l'attualizzazione. Il dispiegamento, oserei dire, e mi si perdoni la povertà dell'analogia, che succede presso poco quello che succede ad una quercia che in qualche modo è già presente, attuata completamente nella ghianda, ma che attende di dispiegarsi lungo il corso della sua storia. È un'analogia che non dice tutta la verità, che è presente nella distinzione tra la realizzazione definitiva del piano di Dio che si è verificata a Pasqua e la attualizzazione che viene compiuta dallo Spirito Santo. Lo Spirito del Risorto, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Lo Spirito del Risorto è presente per dispiegare, attualizzare quel piano, ossia per fare in modo che quella volontà compiuta là diventi la volontà qui e ora di Dio. Il discernimento, chi viene il discernimento? Il discernimento è la fede che si configura come interpretazione della volontà di Dio qui e ora. E vado avanti perché pensavo di essere, ma quanto si è fatto? Quattro minuti. Ora passiamo alla quarta domanda. Qual è lo statuto epistemologico del discernimento? San Paolo parla della mente che viene rinnovata, non dice che la mente viene eliminata, cioè non si esime dalla fatica del concetto, il discernimento che è un dono di Dio. Allora la fatica del concetto comporta l'analisi dello statuto epistemologico del discernimento, perché sotto un certo profilo è una forma di sapere. E potremmo dire che lo statuto si raccoglie attorno alla correlazione di un duplice approccio. L'approccio induttivo, ermeneutico della parte, adesso dirò in che senso, e l'approccio trascendentale e deduttivo della totalità, dell'intero. Cioè sappiamo che la parte deve essere letta alla luce dell'intero. La testa di un mosaico la puoi capire nella misura in cui la vedi alla luce del disegno globale del mosaico. Ora, la parte che è la volontà di Dio qui e ora, i tratti del disegno di Dio tracciati dallo spirito del risorto ogni giorno. Sono la parte. La parte intanto può essere colta, illuminata, nella misura in cui la si vede alla luce dell'intero, l'intero è la Pasqua. L'intero è l'orizzonte della Pasqua, che diventa un orizzonte di senso e diventa anche la chiave di lettura della vita quotidiana, di quello che succede nella vita quotidiana, nel profondo. Questa deduzione viene operata attraverso il principio trascendentale della sefela, cioè della imitazione di Cristo. A partire da Cristo come modello, come esemplare, io ricavo delle prescrizioni operative, che rimangono però nell'ambito dell'astratto. Queste prescrizioni operative, queste prescrizioni morali, cioè come si comporterebbe Gesù in questo caso qui, queste prescrizioni, che sono astratte, per un verso illuminano la mia lettura ermeneutica, induttiva, dell'esperienza feriale, per cogliere i segmenti del piano di Dio che viene attualizzato dallo Spirito Santo. Illuminano. E per un altro verso, i risultati di quell'analisi ermeneutica dà concretezza alle conclusioni che ho tratto deducendole dalla Pasqua attraverso il principio della sefela. Per essere più chiari, dato che siamo in un contesto anche filosofico, potremmo utilizzare lo schema kantiano e dire che le prescrizioni dedotte dalla Pasqua fungono un po' come da forma trascendentale che rende intelligibile i risultati della lettura ermeneutica della mia vita quotidiana. D'altra parte, questi risultati fungono da materia che danno contenuto e concretezza a quella forma trascendentale. Se manca uno di questi due componenti, ecco perché parlavo di correlazione, se manca l'orizzonte trascendentale o manca l'ermeneutica, allora, per un verso, se manca la prima, ci troveremmo forse in difficoltà a eludere il rischio della ideologia, che è quello di confondere il mio progetto come se fosse il progetto di Dio, se non lo vedo alla luce della Pasqua. D'altra parte, se manca la lettura del discernimento, specifica del discernimento, si può cadere nel grosso rischio di rimanere nell'astrattezza. Le conclusioni tratte e dedotte col principio della sefela possono rimanere astratte. Concludo. Ora, il discernimento è in fondo l'equivalente in senso biblico e cristiano della phronesis aristotelica, la saggezza aristotelica, che Tommaso preferisce chiamare prudenza, quella che funge da nesso tra la sfera delle virtù dianoetiche, la sapienza, la verità, e la sfera delle virtù etiche, la morale. Il discernimento presenta queste due facce, una faccia che ha in comune con la fede, è un atto di fede, e una faccia in comune con la carità, perché la fede richiede, questo giudizio di fede, questa visione di fede, chiede di trasformarsi in una decisione etica, che è quella di comportarmi in modo conforme alla volontà di Dio, qui e ora, che era stata diagnosticata dal discernimento. La fede che diventa carità, e il discernimento è il nesso tra la fede e la carità. Grazie dell'ascolto. Dobbiamo ringraziare il professor Corradi per aver richiamato la nostra attenzione sulla dimensione prioritaria del cristiano, quella dell'ascolto, cioè sul fatto che è l'ascolto la dimensione prioritaria. Basterebbe citare riferimenti a Rahner o anche a Bonhoeffer che dice appunto del cristiano che è inascoltante nei confronti del prossimo e che poiché è inascoltante nei confronti del prossimo non ode più neppure, non può neppure udire la voce del totalmente altro. E del resto lo vedremo poi domani sabato, come si pone il problema centrale anche nella liturgia occorre una liturgia che crei spazi per un ascolto con la piena fioritura dei sensi, quindi come anche la gestualità del sacerdote, che non deve essere distraente, retorica, chiacchierina, ma deve essere una gestualità silenziosa, per così dire.